le proteste vennero dall'aggressione che l'ha avuto Ivan Colonna, prigioniero politico corso, che è stato, c'è stata un'aggressione, una tentativa di omicidio contro Elo, c'è stata una rivolta, un movimento di rivolta sociale in Corsica, perché al di là della questione dei prigionieri politici abbiamo la rivendicazione forte, da poi che abbiamo una maggiorità forte all'Assemblea di Corsica, nazionalisti corsi sono maggiorità al 60%, nazionalisti, voglio dire nazionalisti autonomisti, come il presidente Gilles Simeone, e nazionalisti indipendentisti, sociali e ecologisti come noi Cori in Fronte. E dunque vogliamo un processo di discussione con il governo, non dalla questione dell'autonomia. E come ha reagito lo Stato francese di fronte a queste proteste? Il Stato francese ha sempre negato la democrazia in Corsica, da poi annate, malgrado la fine della violenza clandestina, malgrado il fatto democratico che non abbiamo, l'ho detto, la maggiorità da poi di già 2015 che abbiamo sta maggiorità, adesso sta maggiorità politica è rinforzata per domandiamo sempre un processo di discussione, non tra l'autonomia, ma per noi indipendentista l'autonomia politica con competenza esclusiva, statuti che sono già in Sardegna, in Baleare, in Canarie, in Azzorre, in tutte le isole del Mediterraneo, dell'Atlantica. Noi vogliamo un'autonomia politica e con competenza esclusiva, Baleare per noi di una tappa, non da un processo di autodeterminazione, e avevamo per questo un modello, per esempio in Kanakia, in Caledonia o in altri territori francesi, dunque la Francia lo può fare, di fare una tappa, un primo passo con l'autonomia e dopo un processo con un referendum di autodeterminazione, il popolo corso potrà scegliere o la sovranità totale o continuare l'autonomia. Noi siamo per la democrazia e siamo per difendere il popolo corso in diviso diritti nazionali. Chiarissimo. Macron ha annunciato qualche giorno fa più autonomia per l'isola. È una vostra vittoria? Siete soddisfatti? Noi non abbiamo confidenza nelle parole di Macron, perché Macron no. Vogliamo una parola di Stato, perché adesso c'è da essere elezione, vogliamo una parola di Stato, noi ne vogliamo discutere con il Stato francese adesso e dopo, e vogliamo dunque un processo che al di là dell'elezione francese, e vogliamo un ingaggiamento forte con condizioni forti, prime condizioni far tornare i prigionieri politici, quelli del detto Comando Erignac, quelli che sono stati implicati nell'affare di l'omicidio politico contro il prefetto Erignac. Per noi questa pagina deve essere girata, e dunque per avere un processo di discussione politiche, e aspettiamo che le parole le trasformano in atti. Chiarissimo. Un'ultima domanda. Avete ricevuto supporto dagli indipendentismi di altri paesi? Penso all'indipendentismo sardo, all'indipendentismo catalano. Abbiamo avuto l'affare della rivolta corsa, ha avuto sostegno del popolo di Kanakia, il presidente del congresso di Nuova Caledonia ha mandato un sostegno, abbiamo il sostegno di indipendentisti catalani e sardi e del paese basco.